perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sindacati in piazza per lo sciopero generale di CGIL, UIL e UGL contro le politiche economiche del governo. Napolitano, ci vuole il rispetto reciproco fra governo e sindacati. L'esasperazione non fa bene al paese. Renzi da Istanbul, se rinviamo le riforme ci condanniamo ad un lento declino. E per lo sciopero disagi nelle città per i mezzi pubblici a singhiozzo, fermi anche molti treni ed aerei. L'agitazione di oggi nel settore ferroviario resta in violazione delle regole. Valuteremo delle sanzioni, dice Radio 24 Roberto Alesse, presidente della commissione di garanzia sugli scioperi. Mafia Capitale, spunta un SMS di Buzzi. Speriamo che il 2013 sia pieno di monnezza, profughi, sfollati e bufere. E Radio 24 oggi a Mineo, in Sicilia, nel centro di accoglienza per richiedenti asilo, finito nell'inchiesta. Garantirgli appalti su misura Luca Odeven, ora in manette. Trovato il telefonino segreto di Veronica Panarello, oggi si saprà se la mamma di Loris resterà in carcere. Attesa infatti oggi la decisione del GIP sulla donna che continua a ripetere: non ho ucciso io mio figlio. X Factor 8 in corona Lorenzo Fragola in un'edizione record, 1.300.000 gli spettatori medi ad aver visto la finalissima. Morgan fa il suo show, si arrabbia per i fischi, in dubbio dunque la sua partecipazione alla prossima edizione. E ripartiamo dallo sciopero generale che oggi sta creando, come dicevamo, non pochi problemi per chi deve muoversi, e questo lo sentiremo fra pochissimo, faremo il punto, ma che sta creando naturalmente molti problemi e molte polemiche anche a livello politico. Il presidente Napolitano invita ad abbassare i toni perché l'esasperazione, dice, non fa bene al paese. 54 i cortei nelle varie città, poco fa i discorsi di Susanna Camusso della CGIL a Torino e Carmelo Barbagallo della UIL invece a Roma. Allora, cominciamo a raccontare questa mattinata a partire da Roma e lo facciamo collegandoci in diretta con Francesco De Remigis. Buongiorno. Buongiorno, e così si è da poco conclusa la maxi manifestazione romana, una delle più numerose, oltre 2.500 persone che sono partite da Piazza dell'Esquilino fino a Piazza Santi Apostoli, dove la conclusione è stata il leader della UIL, uno dei principali esponenti di questa protesta odierna, che si è rivolto direttamente al Premier Renzi, Presidente del Consiglio, ci convochi per ascoltarci sulle modifiche al Jobs Act. Ma c'è stata un'altra piazza molto calda oggi, quella di Torino, dove è arrivata la denuncia del segretario della CGIL Susanna Camusso, che spiega la disoccupazione è cresciuta con il governo Renzi. Ascoltiamola. Abbiamo un problema di lavoro, ci ha raccontato, e noi avevamo applaudito, che saremmo andati verso gli ammortizzatori universali, che non andava bene che ci fossero lavoratori che avevano le tutele ed altri che non ce le avevano. Possiamo guardare cosa stanno scrivendo? Stanno scrivendo che chi ci aveva le tutele ne avrà un po' meno, che quelli che non le avevano continueranno a non averle. Ma nel frattempo la disoccupazione è cresciuta. E allora, se vogliamo cambiare verso, si provi a rispondere a questa piccola domanda. Vi dice niente che le imprese in questi giorni stiano aprendo ovunque procedure di mobilità per poter utilizzarla, perché dall'anno prossimo non ci sarà più? Non solo Roma e Torino dunque, ma sono 54 le città in cui i cortei di protesta si sono snodati da questa mattina per le 8 ore di sciopero, una situazione che preoccupa la Presidenza della Repubblica. Giorgio Napolitano dice, tra le prerogative di governo e sindacati, ebbene, che non si vada ad una esasperazione come quella di cui oggi abbiamo il segno. Ed è tutto da Roma per il momento. Grazie, grazie al nostro Francesco De Remigis. E anche gli studenti oggi sono scesi in piazza a fianco dei lavoratori. Vernice e uova sono stati buttati contro una sede del PD a Palermo, imbrattate banche e agenzie per l'impiego a Bologna, scontri si registrano anche a Milano e Torino. Ma c'è un altro fronte di polemica, questo sciopero resta fuori dalla legalità, dice Roberto Alesse, presidente della Commissione di Garanzia sugli Scioperi, ospite questa mattina di Alessandro Milan a 24 mattina. Allora, valutiamo sanzioni per lo stop dei ferrovieri, dice Alesse. 24 novembre già scrivemmo ai sindacati che avevano proposto lo sciopero generale, dicendo loro: guardate che siete fuori dalla legge 146, nel settore del trasporto ferroviario c'è un'eccessiva concentrazione di scioperi, perché oltre al vostro sono stati programmati già in precedenza altri scioperi. Nel settore ferroviario lo sciopero per noi, per l'autorità di garanzia, rimane in violazione delle regole. Andrà valutato attentamente se effettivamente legittimamente ricorrono i presupposti giuridici per l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti dei sindacati che hanno deciso appunto di non adeguarsi alla nostra indicazione immediata. Queste dunque le parole di Alesse. Dalla piazza di Roma, come sentivamo in apertura, è arrivata la risposta proprio ad Alesse del segretario della UIL Barbagallo. Sentiamolo. Noi avevamo detto che era una lesione costituzionale al diritto di sciopero. Ho già detto in passato che il garante non è garante di niente, è un ente inutile, bisognerebbe in situazioni di spending review abolirlo. E quando noi abbiamo dislettato il protocollo d'intesa sulla 146 ci ha detto che noi avremmo fatto scioperi selvaggi. Il selvaggio l'ha fatto lui perché non ha nemmeno attuato la 146. È ora di finirla con alcuni istituti di garanzia che sono solo a garanzia degli altri. Ecco, lo sentivamo dunque Barbagallo, che sia fuori o dentro le regole questo sciopero di oggi, una cosa è certa, è il consueto caos nelle città per chi deve spostarsi, dunque i disagi. Valeria De Rosa. Sì, Piera, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, i primi dati, partiamo da qui, comunicati da CGL e UIL dicono che l'adesione media a questo sciopero è del 70%, punte del 100%, una partecipazione alta ovunque. Per quanto riguarda le fabbriche, i dati sono stati comunicati dalle singole organizzazioni di settore e oscillano tra il 50 e il 70%. Nella scuola il dato di adesione complessivo approssimato per tutti i gradi è del 50%, molti istituti sono rimasti chiusi oggi. Nel trasporto pubblico fermi quasi il 50% dei treni, oltre il 50% degli aerei, bus e metro al 70%. Ricordiamo le fasce: a Roma lo sciopero si sta concentrando tra le 9 e le 17, tutte e tre le metro sono chiuse, stesso schema per Napoli dalle 9 alle 17, a Torino è cominciato alle 9 ma dalle 12 alle 15 dovrebbero essere garantite le corse, a Milano il trasporto locale si ferma dalle 19 fino al termine delle corse. Nel tardo pomeriggio di ieri, e lo avete sentito, il ministro dei trasporti ha revocato la precettazione dei ferrovieri, pertanto dalle 9 alle 16 anche i treni sono a rischio, esclusa però l'alta velocità. Il trasporto aereo si è fermato alle 10 e riprenderà invece il lavoro alle 18. Disagi per i viaggiatori in tutti gli scali aeroportuali. Per quanto riguarda Fiumicino e Ciampino, già code lunghe prima delle 10, regolari voli intercontinentali di Alitalia, che invece ieri ha cancellato altri 200 voli nazionali, 190 i voli cancellati da Ryanair. Per quanto riguarda i tweet degli utenti dalle varie regioni italiane, questi non fanno altro che confermare in pieno tutti i disagi causati dal fermo del trasporto pubblico. Grazie Valeria, dunque disagi che proseguiranno nel corso della giornata e che naturalmente vi racconteremo nel corso dei nostri GR24. Lasciamo ora la pagina dedicata agli scioperi, allo sciopero generale, anche se restiamo a Roma per l'inchiesta di Mafia Capitale, un'inchiesta che ogni giorno si arricchisce di particolari importanti, oserei dire anche un po' inquietanti. Le intercettazioni che via via emergono danno davvero uno spaccato brutto di certi ambienti politici. Facciamo il punto questa mattina con Raffaella Calandra. Ciao Piera, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Dunque, Mafia Capitale che parla e tratta da pari a pari con le altre mafie e così esporta anche i suoi affari. Lo avevano proclamato più volte, il GIP lo aveva anche riportato, lo abbiamo raccontato nel giorno dell'ordinanza, che secondo le persone coinvolte in questa inchiesta, con gli immigrati si fanno più soldi che con la droga. In linea con tutto ciò, Salvatore Buzzi, che è il referente economico secondo gli inquirenti di questa organizzazione criminale della capitale, non poteva allora che augurare a se stesso un anno pieno di monnezza, profughi e casomai piogge e nevicate. Così scriveva a Capodanno 2013 in un SMS inviato a Angelo Scozzafava, all'epoca direttore del Dipartimento di Promozione dei Servizi Sociali del Campidoglio, e nel cinismo di questo messaggio c'è la sintesi di tutti gli interessi, almeno di quelli fin qui emersi, della sua cooperativa 29 giugno, la stessa con cui era sbarcata fino in Calabria per gestire il CARA di Cropani Marina grazie alla protezione del clan Mamma Mancuso e all'intermediazione dei Piromalli, che a loro volta in cambio la 'ndrangheta avevano, entrando in nella capitale, i subappalti della pulizia del mercato esquilino. Altri elementi, sia sugli affari, soprattutto con le municipalizzate, che sui rapporti col mondo politico, sono rintracciati in questa gran quantità di carte dell'inchiesta, per cui le novità, diciamo, emergeranno tantissimo. Sono per ora almeno 4.000 e più, forse, le pagine già diciamo depositate degli atti dell'inchiesta, tutto materiale da cui è venuta fuori anche l'ipotesi, ad esempio, che alla fondazione dell'ex sindaco Gianni Alemanno, sia la fondazione Nuova Italia, siano arrivati 256.000 euro in 3 anni, così come sempre alla formazione politica di Alemanno sia arrivato il sostegno economico di un altro personaggio coinvolto nell'inchiesta, Roberto Mancini, già amministratore delegato di Eur S.P.A., una delle partecipate del comune coinvolte in questa inchiesta, ed è stavolta lui stesso a raccontarlo a verbale. Ma per Buzzi, sempre lui, sempre il referente economico della società, era di fatto tutto il consiglio comunale a prendere i soldi. Dunque soldi e potere, binomio tradizionale di ogni organizzazione mafiosa, compresa questa, soldi a volte nascosti anche sottoterra, come sta avvenendo fuori da queste ultime perquisizioni, oppure passati di mano, soldi e che insieme al potere costruito con relazioni, ricatti e copertura, ma all'occorrenza anche le armi come quelle da samurai che sono state trovate a Carminati, hanno fatto la forza, diciamo, di questa mafia capitale. Ecco, queste dunque le ultime sull'inchiesta, però quella di oggi è una giornata molto importante perché, come sappiamo ormai da 2 giorni, l'annuncio di Renzi è stato mercoledì. Stasera c'è il Consiglio dei Ministri con il pacchetto anticorruzione già annunciato. Le proposte sul tavolo sono più o meno note appunto da giorni, anche se insomma ci sono mal di pancia poi sui dettagli. Dovrebbero essere aumentate le pene, così che ha detto Orlando, il ministro Orlando, possano davvero fungere da deterrente. Poi c'è l'allungamento della prescrizione, novità anche per il patteggiamento e la confisca dei beni. Grasso ieri ha detto che ora serve uno scatto di reni della politica. Potrebbe arrivare questa sera al Consiglio dei Ministri, secondo te, Raffaella? Il progetto, diciamo, del ministro Orlando fin qui sembra andare in questa direzione. Tanto è vero che, appunto, come ricordavi, aumentano le pene per tutti i vari tipi di reati, diciamo, collegati alla corruzione. Soprattutto si allunga la prescrizione, che è sempre un po' il nodo più sensibile, e anche qui adesso staremo a vedere poi stasera effettivamente che tipo di provvedimento uscirà fuori. Ministri, sì, certo. Per ora la proposta della guardasigilli Orlando è quella di arrivare ad una sorta di congelamento della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, con un appello che deve durare al massimo 2 anni, una sorta di processo breve e una cassazione di 1 anno. Staremo a vedere se effettivamente questo sarà il testo che uscirà, perché bisogna dirlo che la prescrizione fino adesso è sempre stata un po' la mannaia che si è abbattuta su tutti i processi per corruzione e che ha fatto sì, come anche ricordava in un tweet un paio di giorni fa lo stesso Premier, che su 50.000 carcerati solo 257 sono quelli che scontano delle pene legate alla corruzione, perché la prescrizione fa sì che non entrino in carcere. Ma va anche detto che fino ad ora, per lo più, le persone coinvolte e condannate per corruzione spesso uscivano dall'inchiesta con i patteggiamenti, quindi con patteggiamenti a volte anche abbastanza bassi. La novità, anche questo è un elemento importante, è che il patteggiamento per ora potrà avvenire soltanto nel caso in cui venga restituito diciamo la somma che viene contestata, il maltolto. Grazie Raffaella, staremo dunque a vedere poi stasera che cosa ci porterà il Consiglio dei Ministri, se ci saranno dunque conferme a quanto stiamo dicendo. Ora tiriamo un po' il fiato. Lorenzo Fragola, aveva vinto X Factor numero 8, era il favorito fin dall'inizio, poi altri due concorrenti lo avevano un po' insidiato, ma insomma poi così è andata. Allora, Marta Cagnola, raccontaci tutto, soprattutto a me che non l'ho visto questa finale. c'era molta curiosità, perché in realtà già in semifinale era stata eliminata Emma, che era salita nelle classifiche anche dei bookmaker, perché si scommette anche su X Factor. Si scommette anche su X Factor, è giusto, ieri un gioco? Sera, sì, ieri sera c'erano i due favoriti, erano lui e Mad, che infatti si sono sfidati nella finale. Finale rapidissima, peraltro, è durata molto poco. Lorenzo, che era il favorito già dai provini, ha vinto. Un dato molto interessante è quello degli ascolti. Allora, 1.300.000 spettatori medi per la finalissima, più 15% rispetto al 2013, la puntata più vista di sempre su Sky. Ieri sera è andata in onda anche su Cielo, quindi in chiaro. Insieme hanno fatto 2 milioni di spettatori medi, share complessivo del 7,9%, con picchi del 13,3%. Questo fa capire che la TV, insomma, sta cambiando. Numeri assolutamente ragguardevoli. Allora, ovviamente Morgan ha fatto il suo show nello show, potremmo dire, come solito. Morgan ha fatto il suo show nello show. Sì, direi che possiamo ascoltarlo. Non ho capito. Perché state fischiando? Cosa cazzo state fischiando? Cioè, non ho capito. Ma cosa fischiate? Io non riesco a capire. Lorenzo, vabbè, insomma, qua, talmente la bolgia, a me mi sembra, non riesco tanto a distinguere la differenza tra questo atteggiamento e quello del tifo da stadio. Comunque, tu... Parolacce che fanno un momento un po' zanzara. Sì. Ieri Morgan casa, no? si è scatenato. Io ero al forum di Assago e i fischi erano persino di più di quelli che si riuscivano a sentire in televisione, ovviamente i microfoni, l'effetto. Il pubblico ha davvero contestato Morgan, forse gli ha fatto pesare che per l'ennesima volta... detto me ne vado, per l'ennesima volta è tornato e per l'ennesima volta ha detto io odio la televisione. Il pubblico sta cominciando ad arrabbiarsi. Ci sarà di nuovo un altro anno, Morgan? Vabbè, noi ci aspettiamo sempre la sorpresa della riconferma, però secondo me cambieranno molte cose nei giudici, cambieranno molte molte cose. Approfitto di te, il capitale umano escluso dai Golden Globe, peccato. Sì. Un brutto segno. Beh, i sogni Oscar si sono per ora un po' infranti. Di solito i Golden Globe li chiamiamo l'anteprima, l'aperitivo, l'antipasto degli Oscar. Svezia, Israele, Polonia, Russia, Estonia sono i paesi da cui arrivano i film che sono nella cinquina dei Golden Globe, e quindi potrebbero essere la cinquina dei miglior film in lingua inglese. Non è detta l'ultima parola. Non è detto, però insomma il segnale è questo. Grazie a Marta Cagnola, noi ci fermiamo per qualche istante. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sindacati in piazza per lo sciopero generale di CGIL, UIL ed UGIL contro le politiche economiche del governo. Il monito di Napolitano: ci vuole il rispetto reciproco fra governo e sindacati. L'esasperazione non fa bene al paese, dice il capo dello Stato. Renzi invece da Istanbul: se rinviamo le riforme, dice, ci condanniamo ad un lento declino. E per lo sciopero, disagi nelle città per i mezzi pubblici a singhiozzo, fermi anche molti aerei e treni. L'agitazione di oggi nel settore ferroviario resta in violazione delle regole, valuteremo delle sanzioni, dice a Radio 24 Roberto Alesse, presidente della Commissione di Garanzia sugli Scioperi. L'inchiesta di Mafia Capitale, spunta un SMS di Buzzi: speriamo che il 2013 sia pieno di monnezza, profughi, sfollati e bufere. Radio 24, oggi a Mineo, in Sicilia, nel centro di accoglienza per richiedenti asilo, finito nell'inchiesta. Garantirgli appalti su misura, Luca Odeven, ora in manette. Trovato il telefonino segreto di Veronica Panarello, oggi si saprà se la mamma di Loris resterà in carcere, attesa la decisione del GIP sulla donna che continua a ripetere non ho ucciso mio figlio. Poi ancora, dopo 12 anni Frida Giannini lascia Gucci, addio alla Maison anche da parte del compagno e amministratore delegato Patrizio Di Marco. Lo dicevamo anche nei titoli, andiamo dunque questa mattina in Sicilia perché uno dei filoni dell'inchiesta Mafia Capitale ci porta proprio a Mineo, in provincia di Catania. Qui c'è uno dei CARA, per CARA si intende un centro di accoglienza per richiedenti asilo, più importanti del nostro paese. Bene, il CARA di Mineo si è aggiudicato in passato molte gare milionarie. Nei mesi scorsi era già arrivata una segnalazione all'autorità anticorruzione guidata da Cantone. Il sospetto era che una gara in particolare da 100 milioni sembrava proprio disegnata su misura sul CARA di Mineo, tanto che le ditte escluse parlarono di lesa concorrenza e fecero appunto appello a Cantone. E chi sedeva nella commissione che aveva assegnato proprio quell'appalto da 100 milioni di euro? Naturalmente Luca Odeven, arrestato a Roma. Allora noi questa mattina andiamo in Sicilia, andiamo a Mineo con la nostra inviata Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno Piero, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi, sono proprio all'interno del CARA, del centro richiedenti asilo di Mineo, a pochi chilometri da Catania. Come ricordavi, Odeven insomma cita anche nelle intercettazioni che vengono riportate nella inchiesta a Mafia Capitale, cita più volte il centro CARA di Mineo. Ad esempio dice: sono in grado di orientare i flussi, in quanto lui faceva parte della commissione per gestire i flussi al Ministero, anche perché passano per Mineo, poi vengono smistati in giro per l'Italia. Questo è un centro che è stato, intanto è il più grande d'Europa, non solo d'Italia ma d'Europa, sono 4.600 attualmente le persone che sono ospitate in questo centro, quando ne dovrebbe contenere 2.000. E poi appunto, come ricordavi, ci sono appalti milionari, si parla di 4.700.000 al mese, che fanno circa per tutti gli ospiti del CARA 50 milioni l'anno. Tra l'altro proprio due giorni fa Musumeci, presidente della commissione regionale antimafia, ha annunciato che aprirà un'inchiesta amministrativa sulla gestione dei CARA di Mineo, perché lo scorso febbraio aveva già chiesto al sindaco di Mineo, che è anche capofila del consorzio che gestisce le strutture, di riferire all'antimafia sulla gestione di questo centro, ma il nostro invito, aveva detto, è stato respinto. Noi siamo entrati proprio nelle case, alcune abbastanza, devo dire. Ecco Valentina, tu so che sei insomma appena arrivata, no? Quindi insomma probabilmente non hai fatto ancora in tempo a parlare con molte persone, però che atmosfera si respira lì? Perché insomma Allora, intanto Piera, ti dico che la maggior parte delle persone qui sono qui da un anno e mezzo, sono richiedenti asilo e i tempi di trattenimento non sono ininfluenti. E già questa la dice lunga su un processo, esatto, che comunque non funziona. Per ogni persona da Bruxelles arrivano 36 euro, quindi più vengono trattenuti più il consorzio diciamo guadagna. E lo stato delle case è fatiscente all'interno, i servizi igienici sono veramente poco in grado di trattenere delle persone, e ovviamente è sovraffollato perché, come dicevo, dovrebbe contenere 2.000 persone, ce ne sono 4.600, quindi immagina lo stato delle case dove dormono nelle brande in 4-5 per stanza. E sì, che di soldi però invece ne arrivano lì, quindi forse per rendere la struttura un po' più adeguata i fondi ci sarebbero. Esatto, sì, il sospetto appunto è che questi flussi venissero gestiti, da cui partono poi tutte le persone che, se non ottengono il permesso di richiesta di asilo, poi vengono mandate negli altri centri, insomma potrebbe rappresentare nell'inchiesta il fulcro dal quale partono molti degli interessi. Ricordiamolo che Odeven e Buzzi parlavano di un grande business nei migranti, rende più della droga, diceva Buzzi. Perfetto, grazie, perfetto ovviamente per dire. Valentina, ne riparleremo Piera anche domani, domenica mattina nel reportage, e poi lunedì ancora in effetto giorno. Grazie a Valentina Furlanetto, inviata da Radio 24 a Mineo in provincia di Catania. Nei prossimi giorni ci farà ascoltare appunto le voci del CARA dall'interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo, finito al centro dell'inchiesta di Mafia Capitale. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi. Sono passati 45 anni da quel 12 dicembre del 69, il giorno dell'innocenza perduta, quando una bomba di alto potenziale sventerò il salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, provocando 17 morti, 18 se si conta l'anarchico ferroviere innocente Pino Pinelli, e oltre 100 feriti. Per quella strage lontana che apre la lunga strategia della tensione, ad oggi c'è una verità storica, ma non vi è alcuna giustizia penale. Pur assolvendo gli ultimi imputati, avvocati Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni, i giudici hanno comunque accertato che gli autori sono comunque uomini di ordine nuovo e di avanguardia nazionale. In particolare, la giustizia conferma il ruolo avuto da Gianfranco Ventura e Franco Freda nella realizzazione degli attentati di poco precedenti alla strage di Piazza Fontana, quelli davanti l'altare della Patria a Roma il 25 aprile del 69 e sui treni dell'agosto del 69, oltre quelli scoppiati a Roma lo stesso 12 dicembre. Alcuni componenti di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, poi arrestati per fatti di eversione, hanno avuto rapporti con le nuove leve della destra eversiva, in particolare con i NAR. Lo stesso Massimo Carminati, oggi boss di Mafia Capitale, all'inizio della sua carriera politico-criminale, passa in pochi mesi da Avanguardia Nazionale a Inara, quindi ha contatti accertati con le vecchie leve delle versioni di destra, in primis con Stefano Delle Chiaie. Lo stesso percorso viene seguito da Riccardo Mancini, pure lui arrestato nell'ambito delle indagini su Mafia Capitale ed ex militante di Avanguardia Nazionale verso la metà degli anni 70. Un legame che nel 1988 porta Mancini ad essere processato e condannato a un anno e nove mesi per violazione della legge sulle armi insieme ai leader del movimento Delle Chiaie e Adriano Tilger. È questo dunque il lungo filo nero delle versioni di destra, fatto di relazioni personali e politiche, che porta dal 1969 fino ad oggi e che non si è mai interrotta. Ed ora apriamo la pagina di Cronaca Nera, che più nera non si può. Sapremo oggi se Veronica Panarello resterà in carcere. La donna è sospettata dell'omicidio del figlio Loris, come sapete, omicidio avvenuto il 29 novembre a Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. Intanto questa mattina è spuntato il famoso telefonino segreto. L'ho nascosto bene, aveva detto in una telefonata intercettata alla mamma di Loris, Veronica Panarello, alla sorella Antonella. Ora quel telefonino segreto è stato trovato ed è all'esame degli investigatori. È stata la stessa Panarello ieri ad ammettere di aver usato per qualche tempo un secondo cellulare con utenza intestata ad una sua amica. Dall'esame dei tabulati delle chiamate fatte anche con questo telefono, in particolare la mattina del delitto, gli investigatori sperano di capire se qualcuno abbia aiutato la donna nell'omicidio e nell'occultamento del corpo del piccolo Loris. Prende dunque sempre più piede l'ipotesi che possa esistere un complice. È attesa intanto per oggi alle 21 la decisione del GIP Claudio Maggioni sulla convalida del fermo. La Panarello, rinchiusa da 3 giorni nel carcere di Catania, ieri è stata ascoltata per 4 ore. Ha ribadito la sua innocenza rispondendo punto per punto alle contestazioni mosse dalla procura. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece in Liguria, perché continuano le ricerche in mare del bimbo russo scomparso nella notte fra mercoledì e giovedì vicino a Bordighera, in provincia di Imperia, a gettarlo in acqua sua madre. Le ricerche del piccolo Semyon, 10 mesi, sono riprese alla luce del giorno. Le motovedette incrociano al largo della riviera, setacciano il tratto di mare da Bussana fino al confine con la Costa Azzurra, dove sono entrate in azione le unità della Guardia Costiera francese. Alle operazioni partecipano anche un elicottero e una squadra di sommozzatori. La madre, Natalia Sotnikova, 40 anni, russa, ha trascorso la prima notte in una cella di isolamento del carcere genovese di Ponte Decimo. I carabinieri e PM della Procura d'Imperia l'accusano di omicidio volontario aggravato. Ieri sera la donna ha ammesso la verità che gli inquirenti avevano sospettato sin dall'inizio. Sono uscita di notte con il mio bambino, ho raggiunto la spiaggia vicino alla scogliera, ho camminato nell'acqua, poi l'ho lasciato andare a fondo, ha confessato dopo che per ore aveva ricostruito confusamente quei momenti tra reticenze, contraddizioni e lunghi silenzi. Ai carabinieri la donna ha detto di aver agito così perché convinta che il piccolo Semyon fosse malato come lo era stata sua madre. Natalia Sotnikova ha raccontato di essere affetta da mesi da una grave forma depressiva. Per provare ad uscirne era partita per una vacanza nella riviera ligure di Ponente con il suo compagno, risultato non essere il padre naturale del piccolo. Da una settimana erano alloggiati nella suite di un lussuoso hotel di Bordighera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Giù il prezzo dei carburanti sulla scia della discesa del prezzo del greggio. La benzina scende sotto 1,6 al litro. Non accadeva da 3 anni. Ne parliamo fra pochissimo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sindacati in piazza questa mattina per lo sciopero generale di CGIL, UIL e UGL contro le politiche economiche del governo. Il monito di Napolitano: ci vuole il rispetto reciproco fra governo e sindacati. L'esasperazione non fa bene al paese, dice il capo dello Stato. Mentre Renzi da Istanbul: se rinviamo le riforme, dice, ci condanniamo ad un lento declino. E per lo sciopero, disagi nelle città per i mezzi pubblici a singhiozzo, fermi anche molti aerei e treni. L'agitazione di oggi nel settore ferroviario resta una violazione delle regole, valuteremo delle sanzioni, dice a Radio 24 Roberto Alesse, presidente della commissione di garanzia sugli scioperi. Radio 24, entrata oggi al CARA di Mineo in Sicilia, nel centro di accoglienza per richiedenti asilo, finito nell'inchiesta, garantirgli appalti su misura Luca Odeven, ora in manette. È stato trovato il telefonino segreto di Veronica Panarello. Oggi si saprà se la mamma di Loris resterà in carcere, attesa la decisione del GIP sulla donna che continua a ripetere: non ho ucciso io Loris. E giù il prezzo dei carburanti sulla scia della discesa del prezzo del greggio. La benzina scende sotto 1,6 al litro, non accadeva da 3 anni. Ed è il momento delle borse. Fatti guidare da chi conosce la strada. UBI Pramerica, da sempre al servizio dei tuoi investimenti. Vi presenta Borse in diretta. Stamattina borse in ribasso, come ci raccontano i colleghi di Radio Corre il Sole 24 Ore. Isabella Tasso, buongiorno. Buongiorno, sì, siamo alla quinta seduta di ribasso. Una mattinata è stata centrata sulle vendite per le borse europee, dove rimane in primo piano la preoccupazione per l'instabilità politica greca. Desta anche timore l'andamento del prezzo del greggio, che continua a essere scambiato sotto la soglia dei $60 a barile. Come se non bastasse, sono arrivati dati macroeconomici poco confortanti. In mattinata è stato reso noto che la produzione industriale della zona euro è salita solamente dello 0,1% a ottobre, dopo il più 0,5% di settembre. Così a metà giornata Milano cede l'1,44%, Parigi l'1,6%, Francoforte l'1,2%. Tenta un timido rimbalzo Atene, che fa più 0,9% dopo le forti perdite dei giorni scorsi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora forti ribassi sui prezzi dei carburanti sulla scia della discesa del prezzo del greggio che sentivamo proprio pochi istanti fa. Stando alla rivelazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina tutte le compagnie hanno risposto al ribasso deciso ieri da Eni, con Tamoil in particolare che stacca tutti. Giù i prezzi per esso: i P-Kuwait, Shell, Tamoil e Total Erg. La benzina scende sotto 1,6 euro al litro, non accadeva da 3 anni. Dunque, come si diceva, una buona notizia, finalmente una buona notizia in effetto giorno, visto che siamo nel weekend, visto che siamo alle porte delle vacanze di Natale, in cui tradizionalmente ci si muove di più e ci si muove naturalmente anche in auto. Ma non basta, la limatura dei prezzi ai distributori non sarebbe in linea con la diminuzione di quelli del petrolio, secondo Codacons, che invita a boicottare i distributori più cari. Ed è su questo che noi sentiamo Martino Landi, presidente FAIB Confesercenti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dicevamo, benzina sotto 1,6 euro al litro, questa è sicuramente una buona notizia, ma Codacons dice non è abbastanza, distributori più cari vanno boicottati. Ma Codacons fa il suo mestiere. Io direi che il prezzo del barile sta calando i prezzi della benzina e del gasolio. Sicuramente, e questo è un mercato libero dove le compagnie petrolifere, come lei ha detto giustamente, si adeguano una ad una al ribasso, non tutte lo fanno lo stesso giorno, però di fatto oggi registriamo un calo, una diminuzione dei prezzi alla pompa, direi abbastanza significativa rispetto a qualche mese fa, ma addirittura rispetto a un anno fa. Quindi voglio dire, questo è sicuramente un aspetto positivo. I prezzi, come giustamente in un mercato libero, sono possono essere diversi, sono diverse anche le modalità con cui si vende la benzina. Sicuramente il prezzo più conveniente è il prezzo self, però voglio dire, c'è una pluralità di offerta tra le varie compagnie petrolifere e tra i vari marchi che chi vuole il consumatore può scegliere. Certo. Ci sono margini di ulteriori ribassi, Landi? Ma guardi, i margini di ulteriore rischio sicuramente sì, fino a che c'è questa situazione geopolitica che favorisce la diminuzione del prezzo del barile, sicuramente poi si riflette sui prezzi alla pompa. Quindi questo per noi e per i cittadini italiani è un aspetto sicuramente positivo. Certo è, se consideriamo che in un litro di benzina oggi ci sono purtroppo tra tasse, tra IVA ed accise incide per oltre un euro, quindi la fetta purtroppo più grossa la fa lo Stato con le tasse, per cui se ci fosse anche un intervento da parte del governo che diminuisce questo balzello, sicuramente i vantaggi sarebbero maggiori. Per voi e anche per i consumatori. E anche per i consumatori, sicuramente sì. Grazie a Martino Landi, presidente FAIB Confesercenti. Comunque, insomma, un Natale almeno con la benzina un po' più cara. Anche i portafogli degli italiani sono più vuoti, ma insomma, almeno avremo la benzina un po' meno cara. Grazie Landi. Prego, buongiorno. E noi apriamo la pagina politica, perché abbiamo sentito in apertura di Effetto Giorno dello sciopero generale di oggi, sciopero che crea malumore in un PD che si prepara all'assemblea di domenica, un'assemblea che si prospetta davvero molto complicata. Anche da Istanbul Matteo Renzi ripete il suo mantra sulle riforme: voler bene al futuro del proprio paese vuol dire avere il coraggio di vedere le cose che non vanno e cambiarle. Non si può nascondere la polvere sotto il tappeto, è il messaggio lanciato oggi dal Premier intervenendo ad un business forum nella città turca. Se cambiamo le cose davvero, allora i nostri figli potranno essere orgogliosi di noi. Se continuiamo a rimandare e a rinviare, ci condanneremo a un declino lento. Sempre dalla Turchia, ieri Renzi ha rinviato all'assemblea di domenica il chiarimento con la minoranza del PD che mercoledì ha votato con le opposizioni mandando il governo sotto proprio sulle riforme istituzionali. Il clima è quello da resa dei conti, ma la minoranza non molla. In piazza con i sindacati oggi Fassina torna a chiedere all'esecutivo di correggere la rotta, soprattutto per quanto riguarda la sua politica economica. Spero che il governo e il segretario del partito non guardino soltanto i rapporti di forza tra maggioranza e minoranza, perché non è quello il punto. Il punto sono questi milioni di persone che oggi perdono una giornata di stipendio in una fase difficilissima e che chiedono risposte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lasciano casa Gucci il direttore creativo Frida Giannini e il presidente amministratore delegato Patrizio Di Marco. Frida Giannini presenterà comunque la sua collezione donna il 25 febbraio, poi l'addio. 10 anni dopo l'addio di Tom Ford e Domenico De Sole, un'altra coppia di potere dunque se ne va dalla Maison. Frida Giannini guidava lo stile del marchio fiorentino dal 2006, quando aveva sostituito Alessandro Facchinetti, mentre Patrizio Di Marco era arrivato 6 anni fa. Fra i due, cioè fra Di Marco e la Frida Giannini, l'intesa professionale era poi sfociata anche in un legame sentimentale, tanto che lo scorso anno hanno anche avuto una bambina. La loro uscita di scena ricorda quindi quella della famosa coppia Dom e Tom, a partire dall'eclatante e inatteso annuncio che questa mattina ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Torna a far parlare di sé Laure Manadou, la 28enne ex campionessa francese di nuoto, è stata fermata all'uscita di una boutique di Disneyland Paris con 200 euro di souvenir, peccato che non fossero pagati. La Manadou, che era in compagnia della figlia di 4 anni e mezzo e di un'amica, è stata portata in commissariato, successivamente rilasciata con un formale richiamo a rispettare la legge. L'Italia vista da terra non è un granché, potremmo dire noi, ma vista dallo spazio è invece molto bella, con la sua orma caratteristica ed è molto luminosa. A dirlo è la nostra Samantha Cristoforetti. Questa mattina per lei videoconferenza con la Terra. Sentiamo come ha risposto alla domanda della collega del Sole 24 Ore, Nicoletta Cottone. Devo dire, fino adesso il cibo l'ho apprezzato molto in generale, sarà che all'inizio comunque ci sono tante cose nuove da provare, quindi non posso davvero lamentarmi. Il cibo, il bonus food che ho portato dall'Italia, mi sta salvando soprattutto nei pranzi, devo dire, perché sono delle buste concepite con il concetto del piatto unico, e a pranzo spesso siamo un po' di corsa perché magari le attività della mattina sono andate siamo un po' in ritardo, oppure comunque si vuole iniziare un po' prima il pomeriggio per non essere in ritardo poi nel pomeriggio, e quindi mangiando un pranzo al volo, ecco, basta scaldare una busta e ci sono questi ottimi piatti unici molto gustosi e che mi danno la sicurezza che senza doverci pensare ho già un piatto completo messo insieme in maniera sera in maniera oculata dal nostro chef Stefano Polato. Cambiamo argomento perché è morto il fotografo americano Michel Dussil, tre volte vincitore del premio Pulitzer. I think it's just a fantastic journalistic experience. This story on Ebola is a very emotional. It's a challenge. It's hard to do. Un'emozione e una grande sfida, così definiva il suo lavoro in Africa il fotoreporter del Washington Post Michel Dussil. Americano di origini giamaicane, tre volte vincitore del premio Pulitzer, Dussil è morto ieri in Liberia per una crisi cardiaca. Aveva soltanto 58 anni e si trovava nel paese africano per documentare la grande tragedia dell'epidemia di virus Ebola. Si trovava con un altro reporter in un villaggio di un'area remota del paese quando ha avuto un infarto. Trasportato per due ore verso l'ospedale più vicino, non è riuscito a salvarsi. Dussil aveva vinto due Pulitzer negli anni Ottanta quando lavorava per il Miami Herald, uno invece nel 2008 proprio al Washington Post, che ora gli rende omaggio ricordandolo per la sua capacità di catturare immagini delle lotte e dei trionfi dell'uomo e definendolo uno dei più bravi fotografi al mondo. Di recente aveva deciso di dedicarsi completamente all'Ebola ed era determinato a rimanere su questa storia malgrado i rischi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è arrivato il momento di cedere il microfono a Mario Platera ad America 24. Noi ci risentiamo fra pochissimo. America 24 di Mario Platero. Buongiorno da Washington, Mario Platero. Sono alla capitale americana perché c'è stato uno sviluppo molto importante, uno sviluppo atteso. Per fortuna è stato positivo. La Camera ieri notte ha votato il bilancio, anzi il prolungamento dei finanziamenti al bilancio a tre ore della scadenza, che avrebbe di nuovo chiuso il governo americano. Una notte movimentata, drammatica. La palla ora è al Senato. L'auspicio è che si trovi l'accordo per chiudere una legge finanziaria da 1.100 miliardi di dollari senza dover tornare alle vecchie polemiche fra repubblicani e democratici che alla fine hanno portato alla chiusura temporanea del governo americano alcuni anni fa, come ricorderete. Ma devo dire, sono venuto a Washington non solo per seguire questo sviluppo chiave per l'economia, ma perché ieri sera sono stato anche invitato al party natalizio della Casa Bianca dal presidente Barack Obama e dalla First Lady Michelle Obama. Hello everyone and welcome to the first ever interactive White House holiday card. This year, Michelle and I wanted to find a new way to send our holiday greetings to you and your family. The holidays are one of our favorite times of year here at the White House as we welcome tens of thousands of people from across the country and around the world to view the holiday decorations. And for our family, like so many others, the holidays are a time for us to step back, appreciate our many blessings, and reach out to those less fortunate. They're also a chance for us to come together and spend time with the people we love. So from our family to yours, we wish you a wonderful holiday season and a happy, healthy new year. Merry Christmas and happy holidays, everybody. Ecco, questo Natale è dedicato ai bambini nel paese delle meraviglie, Children in Wonderland, e alle forze armate, ai soldati al fronte, ai soldati che sono dentro le basi militari. Gli addobbi sempre incredibili riflettono il tema soldati e militari da una parte, bambini e il sogno americano dall'altra. Ho provato ieri sera a registrare una parte di questa puntata in diretta proprio mentre ero alla Casa Bianca, perché devo dire non mi capita tutti i giorni di poterlo fare, e dunque ecco, ve la faccio riascoltare come augurio per tutti voi, come avvio di questa stagione natalizia, tra molte voci di sottofondo, una band dei Marines che si ostinava a dare un'interpretazione jazzistica di alcuni classici del Natale. Sentiamo ad esempio la loro interpretazione di Good King Wenceslao, poi il mio racconto da dentro la Casa Bianca, seguito da un'altra interpretazione, questa volta di Have Yourself a Merry Little Christmas. vi sto facendo una diretta dal foyer della Casa Bianca, dove c'è un grande party natalizio. Sentite le voci di sottofondo e il pubblico che è stato invitato dal presidente Barack Obama e da Michelle Obama per celebrare il Natale, una delle feste che il presidente americano e la First Lady fanno alla Casa Bianca, appunto per far partire la stagione natalizia. Devo dire, è sempre straordinario essere dentro la Casa Bianca, è straordinario vedere come addobbata in questa particolare occasione. Pensate che ci sono addirittura 26 alberi di Natale, sono sparsi un po' dappertutto nella Casa Bianca, tutti bellissimi, ma l'albero che nella sala centrale è quello principale, è un albero dedicato alle forze armate americane, dedicato a tutti i soldati che in questo momento sono al fronte, ma anche a tutti i soldati americani che sono nelle basi a servire il paese. Funziona un party natalizio alla Casa Bianca? Beh, vi ho dato un'idea del banchetto, vi ho dato un'idea dei dolci, degli addobbi, della gente che si incontra, e questa straordinaria atmosfera di festa. Oltre alla banda dei Marines c'era anche un altro trio che suonava, c'era anche un coro a cappella, ci sono personaggi del mondo politico, del giornalismo, della capitale, ci sono dei cartoncini bianchi, rossi e blu per dividere in turni una piccola coda per ricevere il benvenuto del presidente e di Michelle Obama e fare una foto con loro. Mentre aspettavo il mio turno, c'era un trio di fiati, oboe, clarinetto e flauto che suonavano prima, sentiamolo, I Saw Three Ships. Poi avete colto anche questo trio, così vuole essere un po' movimentato, un po' giazzato in queste interpretazioni classiche. Dopo vi dicevo, ecco che segue It Came Upon a Midnight Clear. È stato a questo punto che il presidente è arrivato dal corridoio mentre aspettavo, è passato di fianco a me, si è infilato in una stanza subito dietro dov'ero e ha chiuso le porte. Era da solo, non c'era nessuno che l'accompagnava, c'era una persona con lui ma era dietro. È stato forse 6 minuti, 7 minuti, non so esattamente quanto, chiuso dentro questa stanza. Doveva forse liberarsi, diceva qualcuno, beh insomma anche i presidenti in effetti devono fare pipì. Poi invece Obama esce e dice trionfante: ho dovuto risolvere qualche piccolo problema per far andare avanti il paese. Ecco, ho ricostruito soltanto dopo, è stato quello il momento chiave in cui c'è stata la chiamata del presidente al congresso, la sua chiacchierata con Boehner, il presidente della Camera, per chiudere l'accordo ed evitare la chiusura del governo americano. Lui ha convinto i democratici, Boehner i repubblicani, è stato un raro momento di unità fra repubblicani e democratici, fra Boehner e Barack Obama. Un momento, devo dire, per me emozionante, perché è avvenuto in trasparenza. Sotto i miei occhi ho visto in diretta, anche per voi, una dinamica di policy making americano. E poi subito dopo Greensleeves, un altro classico, sempre con variazioni. Ecco, poi il momento del saluto al presidente, alla First Lady e della foto. Devo darvi una notizia, una piccola notizia personale. Come l'amico Federico Rampini, come altri colleghi, come altri amici, ho preso la settimana scorsa con mia moglie Ariadne la cittadinanza americana e a questo punto ho un doppio passaporto, sia italiano che americano. Ecco, mi hanno consentito di portare i certificati di cittadinanza mentre facevo la foto col presidente, di farli vedere al presidente che, come sapete, sta promuovendo una legge per l'immigrazione, e con questi certificati di immigrazione legale, ha sottolineato Barack Obama mentre mi stringeva la mano in bella mostra fra noi, abbiamo fatto una foto e abbiamo avuto un benvenuto straordinario in questo paese, un avvio natalizio, devo dire, che non dimenticherò mai. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a seguirli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, chiudiamo con un classico, sempre giazzato. Apriamo la stagione natalizia qui ad America 24, su Radio 24, e dei Marines, sempre con variazioni, Jingle Bells. Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, realizzato e condotto oggi da Maria Piera Ceci, in redazione grazie a Laura Faggini, in regia Pietro Lacorte. Ci ritroviamo fra pochissimi istanti con gli aggiornamenti del GR. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti.